Spacca lo scroll. Bello così, ci sta. Yes. Su Radio XXX. Spacca lo scroll. Radio XXX. Bella raga. Su Radio XXX. Spacca lo scroll. Radio XXX. Bella raga. C'è Radio XXX. Levatana. C'è Radio XXX. Levatana. C'è Radio XXX. Dammi retta. Radio XXX sullo stereo. XXX suona ogni giorno. XXX nulla di porno. Pronti per la diretta Bino Selecta per farvi muovere le teste. La radio con la sigla X. La radio con la sigla X. Quanto cazzo è figa.